Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Lo sapete, l'ho detto più volte, io trovo la radio spesso molto più interessante della televisione perché ha un potere evocativo, perché si rivolge, come dire, a un pubblico che mi interessa. Però certo, oggi è una di quelle giornate in cui la radio ha un piccolo limite, perché il personaggio di cui parliamo oggi, oltre che ascoltato, andrebbe visto, perché racconteremo con più dettagli possibili la storia di una ragazza che ha fatto sognare generazioni di ragazzini che poi sono diventati uomini. È stata l'oggetto del desiderio di molti maschi, è comparsa più volte sulla copertina di Playboy. Insomma, è stata la bagnina da cui chiunque avrebbe voluto farsi salvare. Stiamo parlando di quella che è considerata una delle ragazze più sexy di tutti i tempi, Pamela Anderson. Una storia che teoricamente dovrebbe partire dalla California, con le spiagge, il sole, il surf, le belle ragazze. E invece no, perché il viaggio inizia molto più al freddo, in Canada, nello stato della Columbia Britannica. È un posto fuori mano, vuoi per il clima e vuoi perché quella zona è stata una zona colonizzata dai migranti europei, che hanno creato delle piccolissime comunità in una terra sconfinata e anche un po' inospitale, proprio come il nonno finlandese di Pamela Anderson, che vive a Ladysmith, un paesino di 7000 abitanti. Lei ha l'occasione di farsi notare già dal primo giorno della sua vita, perché finisce sul giornale per essere la prima canadese nata il primo luglio del 67, il giorno del centenario della nascita del Canada. Così di Pamela Denise Anderson ne parlano tutti i giornali, la chiamano la bambina del centenario. Questo però sarà solo il primo contatto con la stampa, e nessuno sa che poi questo fatto di andare sui giornali diventerà una abitudine della sua vita. Non riesco ancora a capacitarmi della vita fortunata che ho vissuto. Sono nata in una famiglia poverissima per finire tra gli sfarzi di Hollywood. Eppure sarei stata altrettanto felice lavorando come cameriera e portando a spasso il mio cane sulla spiaggia. Un'infanzia non troppo facile, vissuta con in casa un padre che si lascia andare a qualche bicchiere di troppo e una babysitter che, almeno a quanto ha dichiarato qualche anno fa la stessa Pamela, ha abusato di lei. Insomma, un'infanzia che la rende più forte, capace di badare a se stessa, dote che poi le servirà nell'età più adulta. Cresce, diventa una bella ragazza, bionda, occhi azzurri, così quando ha 20 anni comincia a lavorare come modella. Però in un paesino del Canada non è che ci siano tante opportunità, neanche tanti divertimenti, così l'unico diversivo è andare a Vancouver a vedere una partita di football americano. Negli Stati Uniti, in realtà succede anche qua ormai, allo stadio spesso le telecamere indugiano sugli spettatori e poi il football americano ha soste molto lunghe di gioco, per cui il regista va in giro e tutto questo viene proiettato sui maxi schermi. A un certo punto la telecamera inquadra una ragazza bionda e il pubblico inizia a rumoreggiare. Il cameraman fece uno zoom su di me e tutti si misero a urlare e gridare perché mi fecero scendere vicino al campo. Indossavo una t-shirt Labatt blu e Labatt finì per farmi fare una pubblicità per loro. Pamela sta ballando a tempo di musica, indossa una strettissima maglietta della Labatt, una marca di birra, e tutti applaudono, c'è una serpeggia dell'eccitazione. Lei vince a furor di popolo un provino con i consumatori della birra, che dimostrano di apprezzare le sue doti, e così inizia la carriera di modella di Pamela Anderson. Non faccio battutacce sul fatto che il colpo è d'ala, ma forse non è esattamente fatto con le ali. Comunque, dopo essersi fatta notare dalla campagna pubblicitaria della birra, viene contattata da una persona che ha il potere di trasformare le ragazze in piccole star, di farle diventare oggetto del desiderio di tutti gli uomini del pianeta. Stiamo parlando di una nostra vecchia conoscenza, quel vecchio volpone di Hugh Hefner, il creatore di Playboy. Pamela Anderson compare così sulla copertina di Playboy nell'ottobre dell'89, indossa solo una giacca della divisa scolastica americana, copre il resto del corpo con un cappellino di paglia e, come accadrà nelle successive 14 copertine che la rivista le dedicherà, non mostrerà quasi nulla del suo corpo, niente di esplicito, eppure sempre con un risultato sorprendente, a riprova del fatto che il vedo e non vedo a volte è molto più intrigante di un super nudo esplicito. Lei piace immediatamente al pubblico, diventa una delle conigliette più desiderate. Per lei si spalancano le porte della famosa Playboy Mansion. Quando mi tolsi i vestiti per la prima volta per la rivista, non ero per niente a mio agio. Il fotografo utilizzò un solo rullino perché ero nervosa e vomitavo. Ma quando ho visto le foto, da lì in poi è stato molto difficile tenermi gli abiti addosso. Il falco e il gabbiano. Il successo della copertina di Playboy sconvolge la vita di Pamela Anderson. Si trova catapultata in California, nel regno di Hollywood, con attori, con produttori, musicisti, lei che è al centro dell'attenzione. È un mondo in cui ovviamente l'apparenza è tutto, e abbiamo già raccontato in altre occasioni dei consigli che dava Hugh Hefner alle sue protette. Il consiglio è quello di adeguarsi a uno standard che le rende tutte simili: capelli biondi, lunghi, fluenti, labbra carnose, seno prosperoso, risultati che si ottengono anche grazie ai ritocchi della chirurgia plastica. Insomma, inizia questo adeguamento strutturale di Pamela Anderson alla legge dell'establishment hollywoodiano. La ragazza ha delle forme perfette, ma il ritocco al seno è una delle prime operazioni a cui si sottopone. Il risultato è eccezionale, soprattutto diciamo da quel punto di vista lì, Arriva la seconda copertina di Playboy, è il febbraio del 91, si aprono le porte della televisione, apparizioni nelle sitcom. Nel 91 però arriva l'offerta che dà una svolta alla carriera di attrice, se così possiamo dire, di Pamela Anderson. Baywatch, una serie televisiva iniziata nell'89 che racconta le avventure dei bagnini che lavorano sulle spiagge californiane, diventa una serie cult fra i ragazzi dell'epoca perché ha tutti gli ingredienti per, come dire, assecondare le prime pruderie dell'adolescenza. Ci sono le spiagge, ci sono intrighi, avventura, ma in realtà ci sono bei bagnini e bellissime bagnine che arrivano più o meno tutte dalla Playboy Mansion, cioè dalla casa, dalla factory di Hugh Hefner. E poi ci sono queste inquadrature di ragazze splendide avvolte in un costume intero rosso fuoco che corrono sulla spiaggia, immagini rigorosamente a rallentatore. Quello non era il timer? Esatto, amico mio. È l'ora di Baywatch! Ehi, ehi, stanno correndo! Lo vedi? È questa la bellezza della serie. Io li farei correre di continuo. Soltanto correre. Correte. Correte! E questa è una parodia di un telefilm, di una serie molto più attuale che è Friends, perché in effetti Baywatch, insomma, è un telefilm un po' per cuori ingenui ed è un telefilm fatto apposta per mostrare un po' di belle donne o di bei ragazzi per le donne. Alla terza stagione subentra Pamela Anderson nel personaggio di CJ e rimarrà per 5 stagioni. Vedrai che ti divertirai. Le rapide qui a South Fork sono le migliori in assoluto. E Casey Jean è la guida più esperta. Perfetto, anche perché non ci saremmo accontentati di una guida qualunque. Noi vogliamo la migliore, esatto. Esatto. Insomma, con Baywatch Pamela Anderson diventa una star conosciuta in tutto il mondo. Arrivano altre copertine di Playboy e comincia ovviamente a essere oggetto di gossip a proposito di sue possibili relazioni con questo o quella star del cinema. Alla fine del 95 arriva la notizia che getta nello sconforto i fan di sesso maschile, perché dopo 4 giorni di fidanzamento su una spiaggia di Cancun in Messico, avvolta in un semplice bikini bianco, Pamela Anderson sposa Tommy Lee, che è il batterista di Motley Crue, quello tatuato, insomma, è un personaggio particolare, una rock star del metal, glam metal, diciamo. Sarà una relazione tempestosa, i due divorziano dopo 3 anni e 2 figli, poi si rimettono assieme, si lasciano di nuovo e in un valzer di addì che dura fino al 2008. Beh, quando ci si sposa, uno dei momenti più intimi, più belli, dovrebbe essere la luna di miele, e Tommy Lee e Pamela partono per una bella vacanza, ovviamente, gite in barca, spiagge, solo che Tommy ha la passione per la videocamera e insomma si porta qualche ricordo a casa dei bei momenti passati con Pamela, e tornati a casa la coppia si appresta a vivere la normale vita di tutti i giorni, insomma normale. Tommy Lee è il batterista di Motley Crue, quello che fa la solo girando su se stesso da 30 anni. Pamela è una delle donne più desiderate del pianeta. Hanno una villa stupenda a Malibu che stanno finendo. Ci sono parecchie persone che entrano e escono e gli operai che stanno lavorando. Alcuni si occupano dell'impianto di videosorveglianza, quindi sanno come funziona e come non farlo funzionare. Diciamo questo perché a un certo punto Tommy Lee litiga con un elettricista, non lo vuole pagare, insomma inizia uno scambio di accuse reciproche, a seguito delle quali si racconta che Tommy Lee abbia puntato una pistola contro il malcapitato, che viene cacciato via senza ricevere un soldo. Però l'elettricista, l'irritato, l'elettricista ha passato molto tempo nella casa, conosce ogni angolo, sa come sono posizionate le telecamere, sa anche di un garage trasformato in piccolo studio di registrazione all'interno del quale c'è una cassaforte. Insomma, passano alcuni mesi di appostamenti, di controlli, alla fine questo elettricista, che si chiama Rand Gauthier, decide di passare all'azione, ruba la cassaforte, la carica su un furgone, la porta a casa decidendo di aprirla con calma. Lui naturalmente mira ai soldi, ma non sa ancora di aver rubato un oggetto molto più prezioso di qualche decina di migliaia di dollari in contanti. È una videocassetta con le immagini della luna di miele di Tommy Lee e Pamela Anderson. E se volete sapere cosa c'è in questa videocassetta, ve lo racconto tra un po'. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di quella che è considerata forse la più famosa tra le conigliette di Playboy, Pamela Anderson, questa ragazza nata in un piccolo paesino del Canada che conquista in pochi anni, grazie alla sua bellezza inizialmente naturale, poi un po' meno naturale, conquista le copertine di Playboy, diventa una stella della televisione, recita la parte della bagnina di Baywatch. Poi abbiamo raccontato del matrimonio lampo con Tommy Lee, il batterista dei Motley Crue, e poi abbiamo raccontato della loro luna di miele, e qui ci siamo soffermati perché siamo rimasti a un elettricista che ha litigato durante la ristrutturazione della villa con Tommy Lee, che pare lo abbia cacciato in malo modo, e quindi l'elettricista che si vendica ruba una cassaforte e la porta a casa per esaminarne con calma il contenuto. Hey baby! What's up, lover? Here comes the boat. Ah, I was in here naked. Fuck, I love you so much. Let's go, come on. Un Rolex, qualche gioiello, dei soldi, documenti e una videocassetta di quelle che negli anni 90 si usano nelle videocamere portatili per registrare, non so, i ricordi di una vacanza. E Tommy Lee ha fatto questo. Quindi all'inizio Gauthier si ritrova tra le mani un filmato di 45 minuti con la gita in barca, i tuffi, altre immagini come quelle che qualsiasi coppia registra. Poi però arrivano 10 minuti di fuoco, per fortuna lui non ha messo lo stop, e ci sono questi 10 minuti in cui diciamo il fatto che il matrimonio venga consumato viene documentato nei minimi dettagli. L'elettricista pensa di aver vinto la lotteria, mostra il video a un amico che bazzica nel mondo delle produzioni pornografiche, che inizia a venderlo di nascosto, però il video si diffonde e a un certo punto finisce in rete, e a questo punto diventa anche di dominio pubblico. They put it all together as if we had... La gente ha spesso insinuato che il nostro video fosse organizzato con il solo scopo di farci pubblicità, ma non è vero. È un semplice video fatto da una coppia sposata con momenti di sesso neanche eccezionali. That wasn't like a big performance. E il video comincia a uscire sui vari portali pornografici, diventa uno dei video più cliccati in poche ore. La società che pubblica il video si chiama Internet Entertainment Group, specializzata nella gestione di siti porno, di quelli che iniziano a raccogliere pubblico gratuitamente per poi proporre servizi a pagamento. Tommy e Pamela ovviamente fanno causa alla società, anche perché dallo sfruttamento economico del video i due non ricevono neanche una royalty. La disputa termina qualche anno dopo, quando la AEG viene costretta a pagare un risarcimento e $1.5 million, una consolazione che loro ritengono magra perché la richiesta era stata di $90 million. Il video comunque crea un nuovo genere di voyeurismo, non solo per i 10 minuti del rapporto sessuale che la coppia consuma, ma anche per i restanti 35 minuti nei quali i fan di Tommy Lee e di Pamela Anderson possono spiare l'intimità familiare della coppia, vedere come si comportano nella vita di tutti i giorni. Negli anni successivi compaiono in rete altri video, forse rubati, non so, le celebri notti di Paris Hilton, ma a differenza del video di Pamela Anderson, su tutti aleggia un po' il dubbio che tutto sia sempre organizzato dagli stessi protagonisti per farsi pubblicità. Insomma, Paris Hilton non è certo un personaggio schivo e timido, no? E al di là del famoso video, la carriera di Pamela Anderson prosegue con successo. Ancora Playboy, interviste, famiglia che cresce, nascono due figli e molto gossip legato ai suoi ritocchi estetici, il seno che continua a aumentare, poi diminuisce perché dichiara di non sentirsi a proprio agio con un seno così grande, poi copertine, insomma, lei sa gestire molto bene la notorietà che le è arrivata dopo la pubblicazione del suo video rubato. Nel 96 c'è anche il debutto nel cinema come protagonista nel film Barbed Wire. Bene, sei un pisciolino ambito, Krebs. Sveglia, tesoruccio. La prego, non mi uccida. Brava, hai stile. Sei il fatto tuo, baby. Che cosa hai detto, scusa? Non chiamarmi Ben. Beh, il film non è certo un film di serie A e anche commercialmente è un po' un fiasco e la sua interpretazione, insomma, non è certo da Oscar, però le sue tute nere, sadomaso, le scollature, insomma, tutto questo fa personaggio e serve a alimentare la popolarità di Pamela Anderson, che diventa un'icona per il pubblico di tutto il mondo. Praticamente nelle apparizioni cinematografiche successive lei comincia a interpretare se stessa, dimostrando di essere un personaggio talmente famoso da essere riconosciuta nel mondo. Nel 2006 interpreta nel film Borat, meraviglioso film, una gag che la vede protagonista proprio nei panni della donna più desiderata del mondo, donna della quale il maldestro e surreale protagonista si innamora. Yag Shemash, avendo imparato molte lezioni da USA, adesso io imparo a America come fare matrimonio stile kazako. Ora vedrete di più. Andiamo a te! Mio nome è Borat. Grazie di essere venuti. Grazie a te. Mi ama Pamela Anderson. In serio? Prego. Ciao. Ciao, mio nome... A chi la devo fare, la dedico? Ah, mio nome è Borat Asagdiev e Pamela, la vuoi sposare? No, grazie, mi dispiace. No, d'accordo, non è necessario. Sì, questa è la scena in cui lui cerca di rapirla per sposarla, perché dal paesino dell'est dell'Europa Pamela Anderson veniva individuata come la donna più bella, proprio perché parte, come dire, da uno scenario molto ingenuo come quello che rappresenta Borat. Comunque andiamo avanti, perché nel 2002 la storia si fa però drammatica, perché Pamela fa un annuncio shock che getta nello sconforto i suoi milioni di fan. Dichiara di avere contratto l'epatite C utilizzando un ago da tatuaggio infetto e quindi contrae una malattia che riduce le sue aspettative di vita. Decide di andare avanti lo stesso, di affrontare il problema e le cure che negli anni peraltro sembrano diventare sempre più affidabili. Nel 2015 annuncia di essere guarito, almeno di non essere più in pericolo di vita. Sono molto fortunata ad essere sopravvissuta all'epatite C. 16 anni fa me la presentarono come una condanna a morte. Credo che tutto questo sia stato molto importante per la mia autostima. Anche se chi mi guardava dall'esterno mi ha sempre visto fiduciosa, io mi sentivo davvero come se una nube scura incombesse su di me senza mai lasciarmi. Passano gli anni e anche Pamela cresce non solo di misure ma anche interiormente. È da sempre amante degli animali e comincia a battersi a fianco delle associazioni che combattono appunto in difesa di specie a rischio di estinzione. Diventa vegetariana, poi addirittura vegana, ricopre il ruolo di animalista attiva, raccoglie il testimone da una che è stata tra l'altro anche una grande attrice, Brigitte Bardot. È stata lei a cercarmi per invitarmi ad una serata di beneficenza a Parigi a favore delle foche. Più tardi mi ha chiamata piangendo per dirmi che mi considera come una figlia. Mi ha detto: «Io non posso più camminare e voglio che sia tu a continuare la crociata a favore degli animali». Le ho promesso che lo farò fino alla morte. Oggi Pamela Anderson ha 48 anni, è ancora una splendida donna, forse anche grazie alla chirurgia plastica. Continua naturalmente a fare parlare di sé. E qualche anno fa, in occasione della festa di compleanno di Hugh Hefner, ovviamente sempre nella Playboy Mansion, si è presentata completamente nuda, portando la torta con le candeline, insomma, attirando così, diciamo, le attenzioni degli invitati. Il padrone di casa, Hugh Hefner, ha sempre avuto un debole per Pamela. Anche lei non ha mai nascosto il fatto di quanto lui sia stato importante per la sua carriera. Hugh Hefner è stato così carino quando ha detto che io facevo parte del DNA di Playboy. Non mi sono mai vergognata di apparire nuda. Forse adesso alla mia età non ha più senso, però devo dire che è bello sentirsi ancora così desiderate dopo tutti questi anni. L'edizione gennaio-febbraio 2016 di Playboy è l'ultima edizione che mostra nudi femminili, una scelta voluta direttamente da lui, da Hugh Hefner, perché ormai sono cambiati i tempi e la carta stampata, insomma, ha lasciato il posto al web. Playboy deve cambiare corso, d'ora in avanti il magazine sarà una rivista di cultura, non ci saranno più le fotografie delle conigliette che per 63 anni hanno fatto la fortuna del giornale. E Hefner, per celebrare l'ultima copertina, ha voluto proprio lei, Pamela Anderson, che in questi anni ha incarnato più di ogni altra, diciamo, la ragazza della porta accanto, una porta magari un po' imbottita, ammortizzata, che si trasforma in oggetto del desiderio per milioni di uomini. Copertina numero 15, quindi un record che nessun'altra donna potrà mai superare. E noi abbiamo scelto di raccontare ogni giorno vite straordinarie, o anche vite particolari, vite curiose, vite divertenti, vite in questo caso da ascoltare e da vedere, colpi d'ala di tutti i tipi, come quelli di Pamela Anderson e di suo marito e della sua luna di miele. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al falcoelgabbiano@radio24.it oppure attraverso i miei, i nostri social, se volete che noi si racconti questa o quest'altra storia. Insomma, se volete, sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Spy on me.